Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette, otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: il vertice europeo, lo faremo subito in apertura. Oggi si sono concentrati i lavori più sul tema crescita e lavoro dopo l'accordo sulla vigilanza bancaria, ma restano i contrasti tra la Germania e la Francia, perché non sono d'accordo non solo sull'implementazione ma sui tempi di partenza. L'operatività comunque dell'intero meccanismo che permette alla Banca Centrale Europea di funzionare anche come banca centrale di tutte le banche, soprattutto di una lista di banche più a rischio, quindi la vigilanza bancaria, la supervisione bancaria, la piena operatività del meccanismo è legata alla possibilità del fondo salva stati di ricapitalizzare direttamente le banche, e su questo ha vinto tra virgolette Angela Merkel, per cui è confermata la ricapitalizzazione diretta, per cui mettere direttamente i soldi nelle banche, non dare agli stati, ma non c'è una data in questo momento. Però questo vuol dire per la Spagna non avere una possibilità immediata di un intervento direttamente nel capitale delle sue banche, perché è chiaro che se i soldi li giri a uno Stato diventano debito di quello Stato, per cui lo Stato poi ha un problema di rientro da questo debito. Se invece i soldi vengono messi direttamente nelle banche in difficoltà, lo Stato spagnolo, italiano o francese non vede aumentare il suo debito. Sfuma quindi per la Spagna la possibilità di avere a breve un intervento diretto sulle sue banche, dicevo, e su questo la Spagna continua a prendere tempo, perché non ha detto oggi il premier spagnolo Rajoy: chiederò gli aiuti se e quando sarà necessario farlo. L'idea invece del supercommissario, che ieri aveva molto agitato le acque soprattutto tra Francia e Germania, ricordate, abbiamo parlato a lungo dell'idea di Angela Merkel di un supercommissario con poteri di ingerenza nei bilanci dei singoli paesi, quindi nelle manovre finanziarie dei singoli paesi, oggi è definitivamente tramontata, e anche Angela Merkel, stando a quanto riferito dal Presidente della Commissione Europea Barroso, ha tra virgolette fatto una specie di marcia indietro, ma di questo, ripeto, parleremo in apertura. Il secondo tema invece che svolgeremo e tratteremo nella seconda ora del programma riguarda la popolarità del premier Mario Monti. Mario Monti oggi infatti ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato di Europa, ma ha parlato anche del disegno di legge anticorruzione, della manovra finanziaria, come l'abbiamo chiamata noi, che si chiama legge di stabilità finanziaria, ma è una manovra correttiva. Di tutto un insieme di dati. Nel giorno in cui è vero che lo spread si è un po' alzato, ma resta sempre a 318 punti, in cui l'asta dei tre giorni scorsi di titoli di Stato è andata benissimo, non bene, 18 miliardi di euro collocati con una fortissima domanda, rendimenti in calo, il prestigio internazionale di Monti resta molto forte, uno dei più alti tra i leader europei, eppure, dicevo, un sondaggio di oggi dell'SVG conferma che la popolarità nel paese di Monti è scesa ai minimi da quando è al governo, ha perso altri 2 punti percentuali. La domanda è: come mai da un lato non c'è un effetto Monti nel paese, cioè la messa in sicurezza di spread, conti pubblici e anche il recupero, diciamo tutto, di una certa credibilità internazionale non ha un effetto poi positivo moltiplicatore nel paese, che anzi è sempre più preoccupato e sempre più rassegnato, e dall'altro non ha nemmeno un impatto sulla popolarità di Monti stesso? Lì ci possono essere vari motivi che affronteremo, ne anticipo due: il tipo di manovre fatte da questo governo, tasse e tagli, molte tasse e tanti trasferimenti, poco o quasi nulla per lo sviluppo, e l'altro aspetto invece può essere dovuto ai partiti politici che stanno precipitando nella popolarità, ma soprattutto votano le leggi del governo in Parlamento, ma poi quando escono dal Parlamento sollevano numerosi distinguo rispetto all'azione del governo Monti, ce ne prendono le distanze. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo anche di borsa e vi do subito la variazione percentuale. Oggi sono tutte negative, Milano è quella che perde di più, meno 2%, Parigi meno 1%, Francoforte meno 1%, Londra meno 0,17%, a Milano molti realizzi sulle banche, ma anche qualche titolo che perde per motivi suoi. Finmeccanica il 5,55% di calo, Mediaset il 5,41%, A2A perde il 3,50%, come ST Microelectronics e Unicredit, il 3,30% lo perde la Popolare Emilia Romagna, il 3,20% Intesa San Paolo e il 3% il calo di Fiat e della Popolare di Milano. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. E partiamo proprio da Mario Monti, che, come ricordavo nella conferenza stampa a Bruxelles, ha toccato molti temi italiani sulla legge di stabilità. Ha detto: abbiamo fatto alcuni errori e di alcuni lo so per certo, ma non c'è nessun motivo di rammarico o pentimento per aver sbagliato politica economica in questi mesi. La legge di stabilità non è una manovra aggiuntiva, a mio avviso sì, sono 12 miliardi e passa, per cui comunque dice Monti che non è una manovra aggiuntiva. E si possono introdurre delle modifiche se i saldi, cioè se le entrate e uscite, restano invariate. Siamo pronti a modificare la legge in Parlamento, ma insomma, detto che il fatto che ci siano numerose considerazioni critiche, alcune di queste forti, non ci sorprende. Siamo, ma qui parlo al plurale perché evidentemente è una cosa che coinvolge in primis la responsabilità del Ministro dell'Economia e poi la collegialità del Governo, ma credo di poter dire siamo disponibili a valutare tutte le modifiche che verranno proposte. Ovviamente non possiamo permetterci di essere disponibili ad assistere a modifiche dei saldi. E poi il Premier è intervenuto anche sull'accordo che non c'è stato. Lui voleva arrivare a Bruxelles con l'accordo tra Confindustria, banche, mondo del commercio e sindacati sulla produttività. Non c'è stato. Ha detto Monti: spero che arrivi presto un accordo. Il presidente Confindustria Squinzi ha detto: eravamo molto vicini ad un accordo, ma all'ultimo momento si sono però resi necessari un insieme di approfondimenti. Il segretario della CGIL Susanna Camusso ha detto la trattativa è tornata a dire che la trattativa è andata male per colpa del governo. Ma c'è un'altra cosa che sta preoccupando e agitando le imprese tutte, non solo quelle di Confindustria, anche la Confcommercio: l'obbligo di pagamento entro 30 o 60 giorni delle merci. La preoccupazione è sia del presidente di Confcommercio Sangalli che di Confindustria Squinzi. Hanno chiesto un incontro urgente con il ministro Catania perché il Parlamento sta mettendo a punto un provvedimento di legge che recepisce una direttiva europea che prevede che i pagamenti tra imprese avvengano entro 30 giorni con l'esclusione però dei pagamenti della pubblica amministrazione. Ci possono essere deroghe contrattuali ma non superiori ai 60 giorni, quindi o 30 o 60 giorni. Potrebbero essere approvati in maniera definitiva già da metà novembre. Il problema è che la Confcommercio ha calcolato in 6 miliardi l'aggravio di immediata liquidità. Voglio dire, se tu eri abituato a pagare a 100 giorni, è chiaro che hai tutta la contabilità spostata di 100 giorni in avanti. Se io ti chiedo adesso di pagare a 30 giorni, devi trovare le risorse, i soldi per pagare chi avresti pagato fra 100 giorni, e quindi 6 miliardi è questa la cifra finale, con migliaia di imprese che rischierebbero la chiusura. Devo dire che a noi sono arrivati in questi giorni decine di sms e mail di imprenditori, anche molto piccoli, preoccupatissimi perché non sanno che cosa succederà e non sanno se veramente da novembre dovranno iniziare a pagare a 30 o al massimo a 60 giorni. Ricordo che, lasciamo stare la pubblica amministrazione, ma anche nel privato la pratica di pagare a 100, 140, 180 giorni non è proprio sconosciuta. Due notizie che vi hanno già dato i nostri GR: la Corte d'Appello di Roma ha dato ragione alla FIOM sull'assunzione e riassunzione di 145 lavoratori iscritti al sindacato dei metalmeccanici, quindi la FIOM, e l'azienda comunque si riserva un ricorso alla Cassazione, alla Corte di Cassazione, mentre la Fiat a Cassino ha fatto scattare 3 settimane di cassa integrazione. E l'altra riguarda Intesa San Paolo, che assieme ai sindacati ha raggiunto un accordo alle 2 di questa notte per evitare esuberi, quindi licenziamenti, e quindi hanno confermato 1300 apprendisti riassunti, quelli già licenziati una decina. E però, per affrontare i maggiori oneri dovuti dalla riforma Fornero sulle pensioni, la banca ha spostato gli obiettivi di impresa dal 2013 al 2015 e poi ricorrerà a riduzione di orario, blocco degli straordinari, ferie obbligatorie, ex festività non pagate, tutte cose che anche solo 24 ore conosciamo. Quando i gruppi devono tagliare o spendere meno, si va e si parte anche da lì. E la Coldiretti, sondaggio SVG oggi presentato a Cernobbio per il Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione: una famiglia su 4 sarà in difficoltà con l'arrivo dell'autunno, il 24%, e con un aumento del 3% rispetto all'anno scorso, e il 48% degli italiani prevede un peggioramento della propria situazione. Oggi grosse notizie, al di là dell'arresto, del visto di garanzia che è arrivato al coordinatore provinciale del PDL di Milano, Sandro Sisler. Grosse notizie non ce ne sono per quello che riguarda le regioni. Possiamo anche soprassedere una volta tanto alla rubrica a cui, ripeto, non tengo, ma che manterremo, della serie Indignati sempre, dopo Disperati mai, ossia sugli sprechi, su come viene sprecato il denaro pubblico. Però, ripeto, oggi non abbiamo cose particolari, respiriamo un attimo, andiamo subito con il primo tema, che si chiama appunto Europa e i lavori dei leader europei, anche una specie di retromarcia tedesca. Oggi non abbiamo assistito allo scontro fortissimo di ieri tra François Hollande e Angela Merkel. La Merkel si era presentata a Bruxelles dopo le dichiarazioni fatte al Bundestag dicendo di essere favorevole a un super commissario europeo con potere di ingerenza. In Francia non si vuole sentire parlare di una maggiore ingerenza, i francesi sono molto, molto gelosi della loro autonomia, e c'è anche chi ha detto: attenzione, i tedeschi fanno così perché sanno che l'ingerenza sarebbe solo sui paesi in difficoltà di deficit o debito e quindi non sulla Germania, è facile fare l'ingerenza con qualcosa di qualcun altro, diciamo, dal punto di vista di Angela Merkel. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora parliamo di Europa. E allora, al di là dello scontro Merkel-Hollande, Van Rompuy, il presidente dell'Unione Europea, ha detto: siamo ancora in ritardo sulla crescita e sull'occupazione, anche se la zona dell'euro ha fatto importanti progressi. Le acque si sono calmate, qui il riferimento allo spread e alle aste italiane e spagnole, c'è più stabilità. Aujourd'hui, on a eu une discussion consacrée à deux thèmes. Oggi la discussione è stata incentrata su due temi, la crescita e l'occupazione. Importanti progressi sono stati fatti, ma restano ritardi nel calendario. Sicuramente la situazione circa la crescita e l'occupazione resta inquietante. Quest'anno avremo quasi una stagnazione nel complesso della zona euro e, secondo le ultime previsioni, una lieve crescita al prossimo. Ci sono comunque dei punti positivi, soprattutto riguardo la stabilità della zona euro. Si nota soprattutto guardando gli spread, che stanno scendendo in modo molto significativo in tutti i paesi dell'area euro. È il segnale migliore di una certa calma ritrovata. Vediamo inoltre una certa convergenza circa i deficit pubblici, la competitività e altri indicatori macroeconomici che mostrano un certo equilibrio. Bisogna ammettere invece che sulla crescita e sull'occupazione gli indicatori divergono e occorre dunque lavorare. Là, les indicateurs sont divergents. E donc il faut y travailler. E appunto anche la retromarcia sul supercommissario. Ci colleghiamo con il nostro Sergio Nava, che è a Bruxelles. Sergio, buonasera. Buonasera. Dicevo, marcia indietro sul supercommissario. La Germania non ci ha più riprovato oggi. Ha però segnato un punto Angela Merkel sulla tempistica nella possibilità che la Banca Centrale Europea possa ricapitalizzare direttamente le banche europee in difficoltà. Vuol dire che i soldi li va a mettere il fondo salva stati direttamente nelle banche e non li dà allo Stato a cui appartiene la banca. Vuol dire, se noi avessimo un problema, poniamo la Spagna, avesse bisogno di qualche miliardo di euro per le sue banche, un conto è dargli allo Stato spagnolo, che si rivede poi nel debito e quindi fa schizzare il debito, un conto è dargli direttamente, non so, a Bankia, e come un aumento di capitale che poi la Bankia ridarà più avanti a chi gliel'ha prestati. La Merkel ha segnato un punto nel non essere obbligata a mettere una data, Sergio? Sì, sicuramente ha segnato un punto elettorale. In questo ieri François Hollande era stato molto chiaro. La Merkel le decisioni di Angela Merkel sono condizionate da un calendario elettorale. A settembre dell'anno prossimo si vota in Germania. Probabilmente, ma questa è una mia interpretazione personale, ma forse neanche troppo, Angela Merkel ieri ha fatto anche un po' una butada per cercare di deviare l'attenzione, estremizzare un po' la partita e poi portare a casa comunque il risultato che voleva portare a casa, cioè quello di far rinviare tutto. Ieri Mario Draghi è stato esplicito, ha detto prima di 6-12 mesi la vigilanza bancaria europea non sarà pienamente operativa e di conseguenza la ricapitalizzazione delle banche a cascata non sarà operativa prima probabilmente dell'autunno dell'anno prossimo, a elezioni tedesche ormai consumate. Certo, e questo per quello che riguarda appunto l'elemento anche politico, per cui la Merkel ieri ha giustamente guardato, giustamente dal suo punto di vista, anche all'elettorato interno. L'altra notizia però, Sergio, e su questo tu hai avuto anche un'intervista con il ministro spagnolo per gli affari europei, riguarda la Spagna, perché la Spagna adesso non può aspettarsi di avere a brevissimo un aiuto diretto verso le sue banche, perché ancora non si è fissata la data di questa possibilità. E oggi Rajoy ha detto, non ho ancora deciso se abbiamo bisogno di aiuti, chiederò gli aiuti se e quando necessario farlo. Sì, la Spagna continua a tentennare, ma ormai è una commedia che si trascina da diverso tempo. La Spagna ha paura in questo momento a chiedere aiuti, chiede garanzie di ogni tipo, soprattutto sul tipo di condizioni a cui andrebbe incontro, perché è vero, le condizioni ancora non sono state definite. Quello che ha fatto Madrid in questi due giorni è far buon viso a cattivo gioco, poi lo ascolteremo anche nell'intervista al ministro degli affari europei, dice di fatto i soldi europei comunque arriveranno, perché l'Europa ha già messo a disposizione fino a 100 miliardi per le banche spagnole, però il meccanismo attuale è che i soldi vanno allo Stato spagnolo, che quindi li ascrive a passività di bilancio, dopodiché vanno via, dopo la mediazione, diciamo, delle casse pubbliche alle banche. Quindi lo stesso ministro dice comunque per il momento i soldi di cui avremo bisogno ci arriveranno dall'Europa. E questo per quello che riguarda Rajoy. Ascoltiamo allora la tua intervista con Inigo Méndez de Vigo. No, precisamente Spagna, Italia, il governo spagnolo italiano. Al vertice non si è parlato della possibile richiesta di salvataggio della Spagna al fondo salva stati. Per quanto riguarda invece l'accordo sull'unione bancaria, ci soddisfa enormemente, poiché il nostro governo, con quello italiano, è stato tra i maggiori sostenitori di questa intesa al vertice di giugno. L'accordo di oggi metterà nero su bianco che i regolamenti per la supervisione bancaria dovranno essere adottati entro fine 2012, dopodiché si metterà in marcia il meccanismo europeo di supervisione nel corso del 2013. È ciò che chiedevamo. Questo è buono per la Spagna, l'Italia e l'Europa. Siamo enormemente soddisfatti del risultato. Non c'è alcun ritardo. Non si può pensare che un meccanismo europeo di supervisione bancaria si adotti un giorno ed entri in vigore il giorno dopo. E il giorno dopo ancora che la BCE stia già vigilando. Serve tempo. Noi siamo molto contenti di questo accordo, come siamo contenti della collaborazione tra Spagna e Italia. Sulla ricapitalizzazione bancaria non siamo preoccupati. Abbiamo fatto un audit delle nostre banche. Il nostro sistema finanziario è molto solido. Ci sono problemi specifici su alcune banche, ormai chiariti, e c'è un'apertura di linea di credito da parte europea. Io credo che la prima tranche di aiuti europei alle nostre banche arriverà presto. Siamo soddisfatti. Crediamo che si vada nella giusta direzione e che l'Europa stia rispondendo. Llegará pronto, yo no, al revés, estamos satisfechos y creemos que las cosas van en la buena dirección y que Europa está respondiendo. La Spagna è soddisfatta, devo dire anche l'Italia è soddisfatta per l'accordo bancario. Sergio Nava, a questo punto i prossimi passaggi, perché il prossimo vertice importante sarà a metà dicembre. C'è un vertice intermedio, ma non si occuperà di unione bancaria, è anche importante quello di fine novembre, sarà sul prossimo bilancio europeo. David Cameron ha già detto che se si aumenta la spesa di budget europea metterà il veto, quindi si annunciano scintille molto grosse a fine novembre qui a Bruxelles, e poi ci sarà comunque il vertice di dicembre, e durante il quale si dovrà effettivamente stabilire a questo punto il quadro entro il quale decidere, stabilire, mettere i paletti di questa benedetta unione bancaria e avanzare anche su tutti gli altri aspetti di integrazione economica che ancora sono aperti. È un cantiere questo un po' più a medio periodo, medio-lungo periodo. L'Europa faticosamente sta cercando di costruire quelle difese, quelle barriere che prima non c'erano. Non è stato sicuramente un vertice che ha dato risultati eccezionali, si è forse parlato un po' troppo e con pochi risultati, però un piccolo avanzamento, o anche se voleva un piccolo ritardo, c'è stato. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, sui pagamenti a 30-60 giorni, che Confcommercio l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, al massimo in deroga 60. Legge europea che il Parlamento italiano sta recependo e sta spaventando molto gli imprenditori che ci chiamano. La Confcommercio stima in 6 miliardi l'esigenza di maggiore liquidità per le imprese, preoccupata anche la Confindustria. Alcuni di voi dicono, ma insomma, se tutti i pagamenti devono essere fatti a 30 giorni, vuol dire che anche gli incassi li riceverai 30 giorni prima. Attenzione, è chiaro che se uno ha un fornitore che deve pagare a 30 giorni, ma un altro, ma fornisce qualcosa a qualcun altro, il gioco è a somma zero. Il problema è che di solito non è che l'impresa lavori solo con fornisca qualcosa e abbia solo fornitori. Esiste anche il mondo del retail, per esempio, che vende direttamente alla clientela, lì non cambia niente, o meglio, continui a incassare come stavi incassando, solo che se avevi dei pagamenti da fare ai tuoi fornitori a 100, 120, 150 giorni o li scadenzavi tu come ti era tra virgolette più comodo, adesso sono al massimo 30 giorni. Non è che sia sbagliato, anzi è un elemento di civiltà. Ci sono solo due elementi di inciviltà. Il primo è che la pubblica amministrazione non è coinvolta e questo quindi continua a pagare quando vuole. E il secondo è che non si capisce che cosa e quando verrà recepita la norma, quindi attenzione. Comunque andiamo sulle notizie delle regioni. Dite attenzione, il Piemonte schiacciato nei conti della sanità. Sì, non è un problema di sprechi di denaro pubblico quello, è un problema di gestione della sanità. Dall'altra parte vi invito però a festeggiare, tra virgolette, il fatto che si sia dimesso da ogni carica dentro l'UDC, e mi riferisco chiaramente a Tassone, il senatore che ieri aveva dichiarato ad Alessandro Mina, ve l'abbiamo fatto ascoltare più volte, che 6.800 euro di vitalizio erano pochi, erano troppo pochi rispetto a tanti altri manager, dimenticando che lui non ha lavorato quando ha fatto il politico, ha prestato un servizio al paese, un lavoro è un'altra cosa. Comunque Tassone ieri in serata ha dato le dimissioni da tutte le cariche che aveva dentro l'UDC, era vicepresidente del gruppo dell'UDC se non ricordo male. La borsa. La borsa oggi non sarà possibile farla con Radio Corriere solo 24 ore, ma intanto inizio io, poi con un gestore avremo un commento complessivo. Media 7 meno 5,66%, Finmeccanica meno 5,55%, Diasorin meno 4,13, A2A meno 3,70 come Steam Microelectronics, Popolare di Emilia Romagna meno 3,30 come Unicredit e Intesa San Paolo. Il 3,1% lo perde invece la Popolare di Milano, il 2,80 Fiat Industrial e UbiBanca. Chi guadagna? Campari più 1,40, Buzzi Unice in più 0,60%, Milano con Madrid tra le peggiori, l'Europa comunque negativa, ha perso lo 0,90 Parigi, lo 0,70 Francoforte, l'America sta perdendo un punto percentuale. Dottor Antonio Tognoli, vicepresidente di Integre Sim, buonasera. Buonasera. Partiamo dai titoli, vuole? Sì. Mediaset cambia, arriva, sarà il vertice di Publitalia, però il mercato reagisce male, meno 5,66%, che è successo? Beh, diciamo che il titolo sconta i tagli dei target price decisi oggi da Berkeley, Sieri, da Mediobanca e Equita, quindi diciamo c'è un consensus abbastanza negativo sul titolo. Barclays in particolare ha ridotto il target price da 1,60 a 1,40 e quindi diciamo gli investitori che si concentrano comunque già sulle large caps, ovviamente nel momento in cui tre case grosse come Mediobanca, Barclays e Equita dicono vendi, ovviamente questi immediatamente cominciano a vendere, non escluso che vadano addirittura a corti, quindi insomma vendere anche titoli che non hanno per cercare di poi comprare i più bassi. Ecco, su Finmeccanica invece anche qui meno 5,50%, un calo superiore alla media. Allora, Finmeccanica ci sono diciamo due voci, la prima è quella di possibilità di azzeramento dei vertici, di fatto non smentite, ma un no comment del ministro Passera, giustamente, perché dice signori stiamo parlando di titoli quotati, quindi forse è meglio non fare delle indiscrezioni strane. E l'altra è in qualche modo il continuo stop and go, adesso sembrerebbe che ci sia uno stop ancora, sulla possibilità che Itachi effettivamente possa comprare Ansaldo, quindi ci sono come dire due o tre incertezze, più che negatività, diciamo incertezze, e nel momento in cui gli investitori vedono l'incertezza dicono beh insomma comincia a vendere, poi vediamo, per comprare soprattutto in questo momento c'è sempre tempo. Dicevo di Diasorin meno 4%, A2A meno 3,70 e poi il blocco delle banche con cali anche qui superiore alla media, li ricordavo prima, tra il 2,5% e il 3%. Allora, effetto così realizzi perché le banche erano cresciute in settimana, oppure è un po' deluso la parte finale del vertice europeo, il fatto che non si conosca la data di quando il fondo di salvataggio potrà intervenire a ricapitalizzare direttamente le banche? Abbiamo visto anche leggermente risalire lo spread a 318 punti. Sì, è un po' quest'ultima interpretazione, ma poi c'è anche ancora una volta lo stop and go sulla, come dire, l'implementazione di un sistema di controllo bancario comune. Insomma, lì la Merkel, io francamente non ho ancora capito che cosa vuol fare, si vuole addivenire un sistema bancario di controllo comune o no? Se l'intenzione è quella, ok, mettiamoci d'accordo, facciamolo, sia pure con le mille difficoltà. Chiaramente, ma questo l'ha detto anche Vegas, questo è il primo passo, poi c'è da, come dire, implementare un sistema finanziario comune, senza il quale evidentemente la regolazione bancaria non avrebbe senso, perché è ovvio che se io in Italia pago tasse del 40%, in un altro paese del 20%, beh, ovviamente indoviniamoci dove vanno a produrre le aziende, quindi tutto un po' questo in questo momento sta un po' facendo premio in senso negativo, per cui gli investitori che avevano, come dire, cominciato a scontare la positività del fatto che ci fosse una rinnovato messa in comune europea dell'intenzione politica di fatto adesso si vede che da qualche parte comincia a scricchiolare, evidentemente questo non va bene, infatti abbiamo visto lo spread che da mal contati 300-302 gradualmente è risalito. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo di dottor Tognoli di altri due titoli. Uno lo commento io, RCS è con TAS il miglior titolo di oggi. RCS vuol dire Rizzoli, Corriere della Sera, più 11,60%. Qui è arrivata la notizia da parte del presidente Bazoli, che Bazoli è componente del patto di sindacato di Mittel, presidente del gruppo Intesa San Paolo, ha detto Bazoli, attenzione, ci sarà, credo che ci sarà un aumento di capitale e sarà uno dei corollari dell'adozione del piano industriale. Questa dichiarazione di Bazoli, di nuovo quindi corsa a comprarsi titoli, tra l'altro titoli molto molto poco liquidi, come spesso ricordiamo, cioè ce ne sono pochi in giro, è facile muovere il titolo con poche operazioni. Campari più 1,43%, effetto spritz, non lo so, mi dica lei Tognoli, l'unico titolo così forte oggi. È una bella spiegazione, effetto spritz. No, beh, qui c'è stato sicuramente il successo dell'offerta del bond, 400 milioni, tra l'altro unrated, quindi non retato. Cioè senza un giudizio da parte dell'agenzia di rating. Tra l'altro piazzato un 4,5%, quindi ottimo tasso. Unretato non si può sentire, glielo dico. Unretato perché... brutto. No, voi della finanza fate come quelli dell'information technology, usate sempre degli inglesismi tradotti in italiano. Non giudicare. Senza voto, diciamo. Senza voto, bravo, ecco. Senza voto. Tra l'altro un 4,5%, quindi un ottimo tasso. Questo diciamo propedeutico all'acquisizione della Shell de Mercado, cioè la società produttrice di rum, una delle tre più grosse al mondo, quindi insomma è una cosa molto molto importante. Di fatto questo chiude il loan bridge, diciamo il credito ponte che era stato fatto per l'acquisizione, quindi da questo punto di vista Campari si continua a confermare uno dei principali player del mercato nel suo settore di riferimento e ovviamente in termini acquisitivi è assolutamente importante, sia perché da un punto di vista facilità di acquisizioni, non che le acquisizioni siano facili, ma è ovvio che nel momento in cui tutti vendono. No, ma l'abbiamo parlato con Bob Kunewitz, che è il loro amministratore legato, loro hanno fatto una campagna incredibile di acquisizioni in questi anni, di vari marchi. Grazie per aver tradotto loan bridge in credito ponte. Su players ancora non ci siamo, Tognoli, gli attori, vabbè, comunque buon fine settimana anche a lei, grazie a parte gli scherzi per i commenti e l'analisi sui titoli. Grazie a Antonio Tognoli, vicepresidente Integre Sim. Torniamo su Mario Monti, prima del tema, vedo che tutti siete già caldissimi sul tema della seconda ora, cioè perché Mario Monti, dato di oggi, sondaggio CVG, crolla nei sondaggi, invece che, tra virgolette, ottenere un risultato da uno spread mai così basso come a marzo, di un'asta dei bot e BTP che è andata molto bene, di un'immagine internazionale molto sana e molto... anche alta. Voglio dire, un anno fa stavamo ragionando in questo periodo della fine del governo Berlusconi, di un governo in cui il ministro dell'economia Tremonti non si parlava col presidente del consiglio, anzi andavano a denigrarsi a vicenda, e con uno spread, lo ricordo, con buona pace dell'ex ministro Brunetta, lo spread viaggiava in questo periodo a 400 punti ed è arrivato poi a metà novembre a 558. Nessun effetto Monti, né nel consenso per il Premier né nel clima del paese, che pur non essendo più sul baratro non mi sembra che vi veda tutto questo così maggior serenità. Monti però ha parlato da Bruxelles molto di Italia, al di là della conferenza stampa legata ai temi europei. Ha detto che comunque anche in Italia c'è un'insofferenza per un'Unione Europea vissuta e percepita come opprimente, e che non servono nuovi piani di struttura. Io vorrei far ascoltare questa definizione dell'Europa come opprimente. Riguarda anche l'Italia, meno credo che altri paesi, però nel meno di un anno in cui il nostro governo esiste e è in contatto col paese e col Parlamento, e ho constatato io e avrete constatato voi che in certi momenti e in certe situazioni soprattutto la insofferenza per, non sto valutando se giustificata o meno, ma fattualmente l'insofferenza per una Unione Europea che viene vista come un po' opprimente dal punto di vista del limitare gli spazi per le politiche economiche interne, che si tratti di saldi del bilancio pubblico, che si tratti di regole che impediscono il salvataggio senza limite di imprese e via dicendo, questa insofferenza è molto, molto cresciuta negli ultimi tempi, pur in un paese che, non mi stanco di ripeterlo, sta dando prova, mi sembra, di grande responsabilità e tenuta, probabilmente perché vede un obiettivo e vede la possibilità, sia pure con difficoltà, di arrivarci. E poi ha detto Mario Monti, sulla Grecia il bilancio è stato positivo e la ricapitalizzazione diretta delle banche, appena stabiliamo il meccanismo di vigilanza, appena la Germania la pianta, questo lo aggiungo io, di creare lungaggini, la ricapitalizzazione diretta delle banche ci sarà. È vero che a fine novembre ci sarà un vertice per decidere qual è il nuovo budget dell'Unione Europea, e specifico e chiarisco perché ho detto che secondo me il premier, il britannico David Cameron, ha ragione: non si possono spendere più soldi in Europa, basta aumentare il budget europeo, è un carrozzone anche quello. Cameron oggi ha ricordato che il 16% dei funzionari europei guadagna più di 100.000 euro l'anno. Dopo il GR invece ci occupiamo del non effetto Monti. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dopo aver affrontato i temi della borsa, ma anche e soprattutto la conclusione del vertice europeo, ripeto, per chi si fosse appena messo in collegamento, nulla di fatto, anzi una piccola retromarcia tedesca sull'idea di un commissario straordinario con poteri di ingerenza sui bilanci dei singoli paesi, però la Germania ha ottenuto di non fissare già da adesso una data per quando potrà esserci una banca centrale europea con poteri di vigilanza bancaria su tutte le banche dell'area euro e poteri di intervento diretto nel ricapitalizzare le banche in difficoltà dell'area euro, senza invece, come funziona adesso il meccanismo, che il fondo salva stati presti i soldi allo Stato e poi lo Stato, che a questo punto aumenta il suo debito, si veda costretto ad aiutare le banche in difficoltà. Dicevo, al di là di questi temi c'è un'altra notizia riguardo a Mario Monti. E al di là delle dichiarazioni, buona parte le abbiamo ascoltate, rese oggi a Bruxelles in conferenza stampa, è crollata nel sondaggio realizzato dall'Istituto SVG in esclusiva per la trasmissione Agorà su Rai 3 oggi, è crollata la fiducia nei confronti proprio dello stesso Mario Monti. Ha perso 2 punti percentuali. Allora, ascoltiamo, ed è sceso al 37% nella popolarità. Allora, ascoltiamo, siccome una delle spiegazioni possibili potrebbe essere legata alla recente legge di stabilità, quella che io ho chiamato banalmente una manovra correttiva, oggi Monti ha detto non è una manovra correttiva, ma in realtà, secondo me, lo è. Ascoltiamo Monti sulla legge di stabilità. Siamo pronti a modificare la legge in Parlamento? Ma insomma, detto che il fatto che ci siano numerose considerazioni critiche, alcune di queste forti, non ci sorprende, siamo, ma qui parlo al plurale perché evidentemente è una cosa che coinvolge in primis la responsabilità del Ministro dell'Economia e poi la collegialità del Governo, ma credo di poter dire siamo disponibili a valutare tutte le modifiche che verranno proposte, Ovviamente non possiamo permetterci di essere disponibili ad assistere a modifiche dei saldi. E io ho detto prima in maniera un po' provocatoria, cioè fatemi difendere Monti, voglio fare l'avvocato del diavolo, secondo molti di voi mi state inondando di sms, ma come fa a non capire perché Monti non sia popolare? Ho capito benissimo, però la domanda c'è e non è solo provocazione, abbiamo riacquistato, piace o non piace, non è un problema di giudizio politico, un'immagine internazionale, ricordo a febbraio la copertina del Time, può quest'uomo salvare l'Europa? E poi il Financial Times ad agosto, l'edizione del Wall Street Journal, sarà il primo ministro italiano quello che salverà l'euro. Lo spread è calato a 311 punti ieri, oggi un po' risalito, comunque rispetto ai 558 punti degli ultimi giorni del governo Berlusconi, è vero che poi era tornato anche a luglio a 500 punti, ma insomma c'è una situazione di maggiore affidabilità dell'Italia e lo dimostra il collocamento dell'asta di queste tre giorni di aste, 18 miliardi collocati sul mercato di BTP con rendimenti in calo. È vero che un ruolo importante l'ha avuto Mario Draghi nel tranquillizzare gli attacchi speculativi, ma insomma la domanda è molto banale, non si è creato nessun effetto Monti, ossia nessun clima un po' più sereno, e lui continua a calare nei sondaggi. Intanto ringrazio gli ospiti che ci hanno raggiunto in collegamento. Da un lato il politologo Giovanni Sartori, lo devo dire con un minimo di biografia, è stato anche mio professore, quindi un po' di reverenza ce l'ho. Buonasera professor Sartori. Buonasera, buonasera. Vede che danni fanno gli accademici. Credo che sia reverenza bonaria. No, dico, vede che danni fanno gli accademici se avete prodotto qualcosa come sottoscritto. Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, buonasera. Ciao Antonio. Buonasera, anch'io naturalmente ho reverenza. Per Sartori, non per me, spero. E poi Maurizio Pessato, che è vicepresidente dell'Istituto di Sondaggi SVG, quello che ha realizzato oggi il sondaggio a cui facevo riferimento. Buonasera Pessato. Buonasera. Vorrei partire da lei. Pessato, mi dica, in questo sondaggio che cosa è emerso? L'effetto della legge di stabilità o qualcos'altro? Sì, certo, l'effetto della legge di stabilità senz'altro, perché comunque diffonde l'idea che si debba ulteriormente lavorare su restrizioni e su tagli, e questo dopo tanto tempo appesantisce. E poi se si guarda bene l'andamento di Monti però è altalenante, allora prima bisogna dire comunque lui ha il doppio della fiducia di qualsiasi altro uomo politico italiano. Almeno il doppio, con i limiti dei sondaggi, ma questo viene in indagini. Cioè gli altri sono tutti al 20% come... Sì, o meno, no? Quindi comunque va questo. Secondo, è altalenante, per cui ci sono, ad esempio in primavera era più in basso, noi veniva di adesso, quindi perché lì il periodo era più tormentato, e poi ovviamente passano i mesi, la ripresa si allontana e questo non può aiutare in termini generali, per cui non c'è una mancata fiducia nella persona, cioè non siamo a un livello in cui la persona non viene riconosciuta, però la situazione pesante fa sì che in maniera altalenante i giudizi siano di volta in volta più critici o meno critici. Allora, professor Sartori, fermo restando che è chiaro perché gli italiani, parte degli italiani ce l'hanno con Monti, manovre di tasse, pochissime risorse se non nulla per lo sviluppo, manovra l'ultima con effetti anche retroattivi su alcuni sgravi fiscali, la sensazione che si siano colpiti più i ceti deboli delle volte e meno i cosiddetti poteri forti, quindi l'accusa che anche molti fanno via sms che Monti sia troppo amico delle banche, ma è solo la parte economica secondo lei che non gli permette di avere un consenso maggiore, visti i risultati obiettivamente innegabili per alcuni versi? Beh, d'altra parte Monti è anche un economista, quindi nella sua concezione di come salvare il paese prevale l'elemento economico. Io poi, ripeto, non sono stupito non solo di questo in sostanza calo, anche se ondeggiante della popolarità, ma semmai del fatto che ancora regge, perché la disoccupazione resta altissima, anzi cresce, e la pressione fiscale aumenta, la gente non ce la fa, tutte cose che non sono colpa di Monti, ma che Monti deve fronteggiare soltanto usando lo strumento del fisco, poco più, perché se non si rientra da quell'enorme debito, lo Stato italiano, che è il 120% del PIL, del prodotto interno lordo, se non rientra da questo enorme debito, lo Stato italiano tutto quello che incassa lo deve dare ai sottoscrittori del debito, quindi non ha una lira. Ecco, questa è la situazione, quindi non mi sorprende che la popolarità scenda, perché la gente non ce la fa e quindi la gabbiata. Antonio Pulito, anche secondo te, perché poi un'altra domanda per voi due, anche secondo te è tutta legata, diciamo, al tipo di manovre finanziarie? Lo stesso Monti ha ammesso 2 mesi fa che le manovre hanno avuto un effetto nel breve di aumentare la recessione, cioè sono state procicliche, come dicono gli economisti. Ma anch'io devo dire, come Sartori, sono stupito invece dalla resistenza nei sondaggi di Monti. Cioè ve lo aspettavate più basso ancora, diciamo? Non è che me lo aspettavo, ma insomma in giro per l'Europa non sono molti gli uomini di governo che possano vantare di essere in testa, perché come diceva il rappresentante della SVG, stiamo parlando pur sempre dell'uomo politico più popolare e più circondato dal consenso d'Italia. E questo in un quadro in cui le singole categorie, gli italiani nel loro complesso, certamente ce l'hanno con lui, ognuno per qualcosa che ha fatto, e tutti per la situazione economica generale pesante, ma persiste un'area consistente e ampia di persone che pensano che stiamo difendendo così un interesse generale, un interesse comune, che poi è quello di non fare una bancarotta finanziaria, di non dover pagare i debiti che facciamo al 7 o all'8%, cosa che non reggeremmo più. Quindi io credo che dopo un anno persista ancora un'area molto vasta, tant'è vero che dal punto di vista politico molti si attaccano a Monti, non so, il centro si attacca a Monti, dice noi vogliamo il Monti bis. Lo stesso Berlusconi ha fatto capire che se Monti ci stesse lui cederebbe la guida dei moderati. Quindi vuol dire che è ancora un asset, ecco, non una qualcosa che ti fa perdere. E poi naturalmente questo effetto piano piano, anzi, man mano che scenderà lo spread e che si calmerà, se si calmerà la tempesta finanziaria, questo effetto ovviamente definirà scendere. Ecco, c'è un'altra ipotesi del perché non si sia creato anche un clima un po' più sereno nel paese. Ho capito benissimo quello che scrivete al 349-238-6666, e cioè appunto aumentano le tasse, c'è meno lavoro, questo lo sappiamo, lo raccontiamo tutti i giorni, però ricordiamoci anche dove eravamo un anno fa, con il rischio di non tenuta dei conti pubblici e quindi non garanzia, diciamo, dei pagamenti della pubblica amministrazione. Un incubo vero e proprio. A mio avviso c'è anche l'ipotesi che i partiti politici, che comunque una certa presa sul territorio ce l'hanno ancora, in Parlamento Monti lo appoggiano, votano le manovre, votano le leggi di stabilità e quant'altro, però poi fuori prendono mille distinguo, si allontanano molte volte dalle posizioni di Monti stessi, cioè di Monti stesso. Questo per un gioco anche più elettorale, e l'ipotesi è che questo possa aumentare nei prossimi mesi perché si va verso le elezioni. Vorrei sapere cosa ne pensano sia Giovanni Sartori che Antonio Pulito nel non effetto Monti nel paese, il fatto che i politici, i partiti che pur appoggiano il governo, in realtà usciti dal Parlamento corrono a creare distanze, distinguo? Beh certo, i partiti insomma sopportano Monti, ma tra l'altro non sarebbero contenti se avesse troppo successo, quindi lo sopportano ufficialmente, ma sotto sotto guardano le elezioni, che per loro possono essere davvero dei partiti esistenti, diciamo, possono essere davvero disastrose. Quindi qui viaggiamo su questa ambivalenza, l'obbligo di non far cadere Monti, perché sarebbe una catastrofe per tutti, ma anche la preparazione per una contesa elettorale che potrebbe essere disastrosa per loro, i partiti. Quindi si viaggia su ghiaccio e su un ghiaccio sottile. Antonio Polito, molti ascoltatori fanno notare che, oltre a quanto ricordavamo sulle manovre finanziarie e le tasse, c'è comunque la sensazione che dopo quasi un anno il governo non abbia mai toccato, non dico i poteri forti, ma le caste cosiddette, pubblico impiego, sprechi della pubblica amministrazione, costi della politica, e in realtà forse confondendo quello che tutelano i partiti rispetto a quello che tutela il governo. Però è rimasta questa immagine a giudicare da molte reazioni. Ma io trovo che sia giustificata sui cosiddetti tagli della spesa pubblica. Cioè, io anch'io trovo che si sarebbe potuto, si potrebbe ancora fare di più. Per esempio penso tutto al tema degli incentivi alle imprese, no? Che è stato oggetto anche di quello studio di Giavazzi, di quella proposta. Certo. E che lo stesso presidente di Confindustria Squinzi ha messo sul tavolo dicendo: noi siamo pronti a fare uno scambio tra meno tasse, no? E meno incentivi. Però poi dentro questi incentivi si scopre che, non so, 1 miliardo va agli autotrasportatori, e figurati se tu togli gli incentivi ai padroncini dei TIR, sappiamo cosa succede, no? C'è la rivolta alla cilena. E un'altra parte va alle municipalizzate che garantiscono i trasporti e i biglietti e tengono bassi i prezzi dei biglietti, quindi se tu gli togli l'incentivo dovresti far pagare il biglietto della metropolitana di Roma per quello che vale veramente, per quello che costa, e qui la gente è un'altra rivoluzione. Cioè, noi abbiamo un sistema così incrostato di spesa pubblica, che ormai intermedia più della metà del PIL, che è molto difficile toccarlo, e forse effettivamente per un governo tecnico, il quale tutto sommato deve sempre chiedere il permesso, il voto dei partiti, forse effettivamente non ha, diciamo così, la forza politica, non dispone la forza politica per mettere le mani in questa che sarebbe la vera e propria rivoluzione. Il problema è: ce l'avrebbe un governo politico che verrà dopo, che venisse dopo? A me pare che ce l'avrebbe. Per quello che si vede, insomma, certo, un governo con Vendola difficilmente toccherebbe queste cose. Quindi io credo che purtroppo si sia persa un po' una finestra di opportunità che si era aperta dopo la drammatica situazione di novembre. All'interno di quella finestra si fece la riforma delle pensioni, già quella sul mercato del lavoro è uscita un po' frenata, e da allora questa parte, non tanto i poteri forti, le banche, questo è uno sciocchetto, io non vedo regali alle banche e così via, però vedo un certo ossequio nei confronti di questa stratificazione corporativa foraggiata dalla spesa pubblica. C'è un certo ossequio nei confronti di quel corpo elettorale, diciamo, che verrebbe toccato dal tagli alla spesa pubblica o maggiore efficienza nella spesa pubblica. Professor Sartori, per concludere però, è strano che nel momento in cui la politica torna a un livello di popolarità che non vedevamo dal 92, da Tangentopoli, cioè bassissimo, per via chiaramente degli scandali giudiziari delle regioni, ma non solo, Monti sembra quasi venire travolto da questa sfiducia nella politica e non invece guadagnare o averne un vantaggio in quanto dal profilo tecnico e quindi meno assimilabile al corpo politico. Monti non viene poi travolto più di tanto, perché come si osservava prima è sempre in testa nella popolarità delle persone che governano, che hanno governato, quindi pur navigando in acque difficilissime, insomma, la gente riconosce che non ha veramente alternative, e che anche se sbaglia, e io sono convinto che molte volte ha sbagliato, tutti sbagliamo, ma anche se sbaglia non abbiamo pezzi di ricambio, quindi con Monti dobbiamo restare. Poi questa storia dei poteri forti, io non ci credo molto. Sì, esistono i poteri forti, ma non è questo che ferma il governo, è che i poteri forti sono anche più abili a sfuggire al fisco, sono quelli che portano i soldi via, che hanno le scatole cinesi, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente cascano nelle reti del fisco, che in questo momento sono le reti più pesanti, i pesci piccoli. Ma i pesci grandi sfuggono non tanto perché sono forti, ma perché hanno gli strumenti per sfuggire, che il normale cittadino non ha. Quindi il contrasto poteri piccoli e è facilmente schiacciabile, poteri forti non lo vede. Intoccabili, è un po' caricato, ecco, mi non è che sono intoccabili, è che non riescano a toccarli. Mi dica una cosa però, professore, per concludere veramente, ma adesso, visto che poi la politica, l'economia si fa anche con la politica, lei a bocce ferme, cioè con la situazione di adesso, vede alla fine un Monti bis? Mi dia una previsione da qua ad aprile, o pensa che comunque i partiti riusciranno in un modo o nell'altro a ricreare una presa sul territorio? Ma senta, che io vedo solo caos, perché anche ora per esempio sulla legge elettorale è una vergogna quello che stanno facendo. E quindi è una vergogna, perché ognuno pensa soltanto a salvarsi. Quindi semmai chi è debole è il governo, perché potrebbe mettere più spesso la fiducia e governare per decreto sui punti diciamo cruciali della sua, certo, gestione. E questo forse per dolcezza di carattere, che è una delle caratteristiche di Monti, e che è anche uno dei suoi pregi, intendiamoci, Monti è restio a farlo, non è un vero combattente. E talvolta peccato, perché forse queste sono situazioni di redimissione. Se viene fiduciato, poi cosa fa il capo dello Stato? Ridà l'incarico a lui per gestire le elezioni, quindi non sarebbe questa tragedia. Le dice un po' più di coraggio. Pensato in una battuta, chi sono gli altri i politici più popolari? Perché è rimasto il dubbio molti ascoltatori, al di là di Monti che viaggia al 37%? Sì, poi ci sono Bersani, Maroni al momento, che hanno un loro gradimento comunque ben distante, e gli altri via via a scendere, ma grosso modo sono tutti all'interno della sfiducia generalizzata. Ma l'effetto scandali delle regioni ha colpito anche lì? Sì, sì, difatti c'è un calo costante e ormai quasi non occorre seguirli, perché il problema sarà che cosa proporranno in futuro. Okay. Va bene, grazie vicepresidente del SVG Maurizio Pessato, Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, al professor Giovanni Sartori, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata e un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.